scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Tornano gli appuntamenti delle feste con le nostre voci in scena, i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di uno dei più grandi cantautori italiani. L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. È nato a Roma nel 1951. Inizia a suonare la chitarra da ragazzo e grazie al fratello Luigi, di 7 anni più grande, comincia a esibirsi in pubblico. Luigi aveva già iniziato a suonare al leggendario Folk Studio di Roma. All'inizio degli anni 70, con Giorgio Locascio, dà vita al duo Francesco e Giorgio, con un repertorio che comprende brani di Bob Dylan e Leonard Cohen. Inizia a dividere il palco anche con gli amici Ernesto Bassignano e Antonello Venditti. Proprio con Venditti realizza il primo album, Theorius Campus, nel 1972. In quell'anno inizia a collaborare con Edoardo De Angelis per i suoi primi 2 album da solista. Il primo, nel 1973, è Alice non lo sa. Da allora i dischi realizzati in studio saranno oltre 20, 15 quelli dal vivo, oltre a 12 raccolte ufficiali. Il grande successo però arriva con Rimmel nel 1975. Per questo il 2015 è stato l'anno di un grande quarantennale che ha festeggiato in settembre con un grande concerto all'Arena di Verona insieme a molti colleghi. Sempre nel 2015 torna alle origini, ritrovando il suo amore per Bob Dylan, traducendolo e reinterpretandolo nel disco Amore e Furto. Lui è ovviamente Francesco De Gregori. Ora è impossibile capire dal primo bacio il tuo limite estremo qual è. Sono impazzita all'idea di un Francesco De Gregori 15enne ragazzino che ascolta Beatles e Rolling Stones, per fare una citazione, e poi a un certo punto folgorato da Bob Dylan. È bellissimo. Sì, è bellissimo. Bellissimo perché Beatles e Rolling Stones erano, diciamo, preferiti dei miei compagni di scuola. Io ero uno che invece amava la canzone italiana, De André. Io contrapponevo ai Beatles De André. Grandi battaglie sui banchi di scuola: è meglio questo, è meglio quest'altro, ma senti le parole, ma che ci frega delle parole? Questo era un po' il dibattito. Quando arriva Dylan, io vinco su tutti i fronti, perché Dylan aveva le parole e aveva il suono, capito? Quindi, e come ho detto prima in conferenza stampa, arriva, irrompe nella mia vita in un momento in cui io ero proprio ricettivo verso qualsiasi tipo di proposta musicale, e cominciavo a suonare la chitarra e ho detto mi piacerebbe continuare ad ascoltare quest'uomo, perché sento che non mi darà mai una delusione, perché c'era talmente sincerità e potenza e verità in quel suono che ero sicuro, e poi ho avuto ragione, che quello sarebbe stato importante per la mia vita di musicista. Johnny è nel seminterrato, cucina l'acido, io per la strada in un angolo controllo il traffico, il poliziotto dentro al cappotto tossisce e grida, vuole la buona uscita, ragazzino cosa fai? Guarda che è sicuro che lo rifarai. Scappa nel vicolo, scansa il pericolo, nel parco uno con un cappello ridicolo ti dà la mano, vuole qualcosa di strano. Un modello all'epoca, ma adesso lo senti più come modello o come compagno di strada? No, continua a essere un modello. Chiaramente adesso io sono consapevole del fatto che sono anch'io un musicista, facciamo lo stesso mestiere paradossalmente io e Dylan, quindi siamo colleghi, ma continua a essere per me un modello. Ho sentito un suo concerto a Parigi una settimana fa e ho ancora una volta cercato di capire come fa a cantare certe note in un certo modo, quindi più modello di così. Come hai lavorato? Ti sei messo alla scrivania, testa china, oppure così un po' ogni tanto? Beh, alla scrivania mi ci sono messo, testa china no, perché un lavoro così va fatto con gioia e quindi senza, no, non come si fa un compito di greco, però certo una parte di disciplina è stata importante avercela, anche girare per giorni su un verso intraducibile, o tradurlo 10 volte in modo diverso e poi sbattere la testa nel muro dicendo non ce l'ho ancora fatta. Questo sì è successo, però bene, sempre con gioia, senza mai il terrore che arrivasse Dylan o il pubblico col dito puntato a dirmi ah, questa cosa l'hai tradotta male. Ecco, non ho mai avuto l'ansia di prestazione, lo facevo perché volevo farlo per me e cercavo di farlo al meglio. Del mondo qua di fuori non c'è traccia, e dicono che è meglio che così. Ma non dimentico la faccia di chi mi ha preso e mi ha sbattuto qui. E questa luce intorno è di innocenza e verità. Ogni giorno è il giorno, benedetto il giorno che uscirò da qua. C'è stata nella conferenza stampa di presentazione l'ansia da parte di tutti di trovare le spie linguistiche, qualcuno le ha definite, di trovare Francesco De Gregori nelle traduzioni, e invece tu hai insistito nel lavoro di fedeltà. Allora, le spie linguistiche ci stanno, nel senso che io traducendo inevitabilmente uso il mio magazzino di parole, che è mio. Quel giornalista, giovane giornalista, ha usato un termine meravigliosamente giusto: spia linguistica. È una spia. Per quanto io possa cercare di essere Dylan nel tradurlo, c'è una spia, c'è qualcosa che rivela il fatto che l'ha tradotto De Gregori e non l'ha tradotto. Se l'avesse tradotto Lucio Dalla, o se lo traducesse Vasco Rossi, farebbero traduzioni altrettanto belle, immagino, ma ci sarebbero dentro il mondo letterario di Vasco o il mondo letterario di Lucio. Qui c'è il mio mondo letterario, questo è innegabile, non posso negare che questo avvenga, ma avviene inconsapevolmente, non avviene perché io voglio che ci sia, avviene perché non può non esserci. Pavese ha tradotto Moby Dick. Allora, evidentemente nella traduzione italiana di Moby Dick ci sono le spie linguistiche di Pavese, e non quelle di Vittorini, e non quelle di un altro, e non quelle di Calvino, se avesse tradotto Calvino, no? Evidentemente. Quindi basta. È sempre Melville, ma dentro ci sono le spie linguistiche di chi l'ha tradotto. Grazie a Dio, vorrei dire. Il grasso si specchia in un filo di lama, il magro in un'avanza di cena. L'uomo senza anima è un'anima in pena, in cerca di dignità. Il saggio la cerca in un filo del prato, il ragazzo nell'ombra di un riflesso passato, il povero uomo in un vetro dorato sogna la dignità. Ma a scuola come andavi nelle traduzioni? Ma mi piaceva, sì, ogni tanto pigliavo anche quattro, però mi piaceva tradurre dal latino e poi anche dal greco. Era divertente, perché il passaggio da una lingua all'altra è difficile, non è mai perfetto al 100%, ma apre degli scenari nuovi. Cioè, la lingua è qualcosa che non è soltanto un fatto tecnico, non è solo usare dei cenni, dei segni, vuol dire proprio avere orizzonti culturali. Cambiare lingua vuol dire cambiare cultura. Se Dylan parla di pavimenti ignifughi in una sua canzone, io non posso tradurre pavimenti ignifughi, perché in Italia non ha senso, perché in Italia le case non sono fatte di legno come molte case in America. Già ragionare su questa cosa è curioso, ti apre un'altra. Allora devi cambiare, non è più un pavimento ignifugo, metti un'altra cosa che soddisfi il concetto che Dylan voleva esprimere attraverso il pavimento ignifugo. Io ho messo un aereo privato, Dylan diceva una casa con pavimenti ignifughi per dire una casa da ricco, e allora io ho detto: ma cos'è che qualifica un ricco in Italia? L'aereo privato, va bene, in quel caso lì non è un tradimento, per esempio, in quel caso lì sono stato fedele, anche se ho cambiato un pavimento con un aereo. Questo per dirti come la lingua ti apre orizzonti stranissimi, divertentissimi. E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco, e un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia.

cappuccio sulla testa e i suoi diari dentro una cassetta. L'hanno visto passare appena adesso insieme a un monaco dall'aria circospetta. Era così terribile e innocente quando ha preso e si è fermato qui ad annusare i fanghi del torrente e a recitare la BC. E a vederlo tu non lo diresti mai, ma era famoso qualche tempo fa come virtuoso del violino elettrico in via della povertà. Il dottor Lurido dietro la vetrina nasconde gli angeli di un anno fa, conserva nella formalina i suoi pazienti senza identità. L'infermiera che recita il rosario inginocchiata sulla scrivania sta controllando le pastiglie del cianuro nell'armadietto della farmacia. E per strada c'è parecchia confusione, stanno fischiando, puoi sentirli fin da qua. Se appena provi a fare un po' attenzione, in via della povertà. Ci si prepara per la grande festa, si inchiodano le tende alla parete, ecco il fantasma dell'opera, perfetto nel suo abito da prete. Stanno imboccando con dolcezza Casanova perché si goda la sua felicità prima di avvelenarlo di parole e di ammazzarlo con la vanità. Ed il fantasma grida: ragazze, vi ho avvertito, andatevene via da qua. Casanova sta per essere punito in via della povertà. A mezzanotte scatta il coprifuoco, i poliziotti tornano al lavoro, mettono le manette intorno ai polsi di tutti quelli che ne sanno più di loro. I prigionieri vengono portati uno per uno dentro l'officina dove la macchina del mal di cuore gli viene stretta bene sulla schiena. E i responsabili dell'assicurazione fanno attenzione a che nessuno esca da qua e scaricano bidoni di benzina in via della povertà. Sia lodato Nettuno imperatore, il Titanic naviga tra i ghiacciai. Arriva l'alba e i passeggeri gridano: dimmi da che parte stai. E Ezra Pound e Thomas Elliot discutono sul ponte di comando, suonatori di calipso li deridono, la poppa si sta sollevando e le sirene affacciate alle loro finestre sul mare vanno in giro con mimosa e lilla. E non ha più molto senso fermarsi a pensare a via della povertà.